mia figlia da capo, odi la strema e le terre minacce, odi la e trema. E stanco e di odi tollerarti, e giunto lo spaventoso giorno, per te del suo furor. Sul capo degno, l'onipotente mano, a gravar non ti senti, ma negli abissi pende già sulla sponda, la vendetta di Dio già ti circonda. Ma questo sacro albergo scelerata in vola, e non funesti l'aspetto di tua sorte.